where the shoes in ritmo di rock and roll si inizia anche per questa giornata di mercoledì 21 maggio 2008. Marco Gravelli con voi a darvi il benvenuto insieme. Pochi minuti dopo le ore 9 inizia quest'altro spazio che ci permetterà di rimanere insieme anche per quest'oggi sino alle ore 12. Che cosa avremo? Beh, un po' di appuntamenti soliti, direte voi, con i compleanni del giorno quasi nulla, se mi sembra, pochissime anche le notizie, però ci sarà l'opportunità di vincere biglietti per concerti, vincere il videogame di questa settimana, comunicare con noi tramite l'SMS che è il 335-100-7777, ancora scrivere alla mail marco@rockfamily.it. Ringrazio ancora Cristian con una vagonata di focacce ancora calde liguri, poi Letizia che spesso tutte le settimane passa con un sacco di brioche buonissime per la nostra colazione, il Pistola e tutta la sua compagnia che ieri ha portato il solito salamino nostrano che non manca mai, insomma ci state veramente viziando. Un grazie di cuore a tutti voi. Noi continuiamo a livello musicale dopo la prima canzone Barefooting dei Brownsville Station, continuiamo con i Doors. To be on the Lover Medley, grazie alla formazione dei Doors. Siamo pronti anche al primo Trisdazzi di quest'oggi, che ci porterà all'ascolto di Stone Free, Jimi Hendrix, Skid Row in a Darkened Room e i Poison. Dalle 22 di sabato 24 maggio fino alle 8 del mattino seguente, una non stop in diretta con il Faulisi e con mille canzoni rock and roll, rockabilly, boogie e surf. Un'intera notte di spassosissimo, grintosissimo, divertentissimo rock and roll dalle 22 di sabato 24 maggio su Rock FM. Lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocence of a child is bought and sold in the name of the damned. The rage of the angels left silent and cold. fly silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts through the wound heals, but the sky that sky remains. The love that night about knowing what to say. Instead of making love, we both made a separate way. And now I here found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tear up inside and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. It's gone. It's like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Poison in chiusura del nostro primissimo Trisdassi di quest'oggi. Ho trovato anche un po' di compleanni, comunque poi faremo anche gli auguri agli amici che sono collegati in questo momento sulla rockfamily.it, che saluto tutti. Vado a salutare anche e augurare la buona giornata e il buon lavoro alla CRI. Mi chiedono se esiste qualcosa a livello di registrazioni dei vari topolini frigo. No, è soltanto una registrazione interna effettuata nei nostri studi, nel programma di Pane, Burro, Rock and Roll, ma di vero e proprio stampato su vinile non c'è assolutamente nulla. Un salutone anche a Lara, auguro anche a lei buona giornata. Christian mi dice: so che anche tu sei un videogiocatore, se mi collego online con l'Xbox 360. Guarda Christian, francamente in questo periodo ho pochissimo tempo per ho tanti videogame che non ho ancora iniziato, magari quest'estate se avrò le vacanze riuscirò a dedicarmi, e non ho mai creato appunto un cosiddetto game tag, non mi collego quasi mai live. Preferisco giocare insieme con gli amici o in singolo. Sarà così, non peraltro, so che ci sono tantissimi giochi che si prestano a giocare in rete, sarà sicuramente divertente, però non ho mai provato, magari in un prossimo futuro. Allora, arriviamo anche a quello che è il primo compleanno di quest'oggi, abbiamo detto giornata del 21 di maggio, andiamo alla formazione inglese dei Kinks, dove John Dalton, bassista di questa band per un determinato periodo, nasce il 21 maggio del 1943. Il compleanno del giorno. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Dei Kinks, You Really Got Me, poi riproposta, rifatta, decisamente molto più heavy da Van Halen. John Dalton, bassista di questo gruppo, nato il 21 maggio del 1943. Andiamo anche al prossimo, che si chiama Hilton Valentine, stesso giorno naturalmente, 21 maggio, guarda caso stesso anno, 1943, è stato chitarrista del gruppo di Eric Burdon and the Animals. Il compleanno del giorno. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. One thing I know is true. be dead before your time is due. Know it. Jim Peterick and Toby Hitchcock, and we're Pride of Lions, and you're listening to Rock FM. Yeah, yeah. 1, 2, 3, 4. You've been playing in the upstairs room, screaming out the news at noon. Laundry blowing in the western breeze. Wind rushing through the autumn leaves. Your sweet voice saying, come to bed. It's like a whisper dancing in my head. Soon the feeling of the fantasy becomes a bittersweet symphony. Well, I can hear the music playing, and I can feel the sunlight of your smile. Baby, could you hold your heartbeat closer to the phone so I can hear the sound of home? Sound of home. Sound. Me everywhere I turn, every minute, every mile I yearn. Must be something that is driving me. I guess the fire's still alive in me. But in the silence of this lonely room, in the corner of the rising moon, I start to wonder if it all makes sense. I miss those days of innocence where I can hear the music playing, and I can feel the sunlight of your smile. Ooh, baby, could you hold your heartbeat closer to the phone so I can hear the sound of home? Drifting, feel my mood start lifting. Think of you and float away. Give me strength to make it. For one more night, I'll take it. Give me to the light of day. 'Cause I can hear the music playing. And I can feel the sunlight of the smile. Visto che qualcuno mi ha chiesto qualcosa di AOR, sono andato sui Pride of Lions, tra parentesi con questa chicca dal loro primo album, una versione unplugged, registrata proprio nei nostri studi, e si sentiva. Grande, grande band, grande duo. Il chitarrista era l'ex leader dei Survivor e il cantante ha una grandissima voce, una grandissima ugola. 9:31 minuti primi, tra poco torneremo insieme con Learning to Fly, la formazione quella dei Pink Floyd.